Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. L'insegnante che dirige il coro dei piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo Salvatore Aiti di Siracusa è un reduce della FIGC. Lo si vede dal maglione con le toppe sui gomiti, lo si vede dal pantalone attillato che mal contiene ormai le gonadi colpite dall'orchite, lo si vede dal residuo di finte Clark che porta, ma lo si vede soprattutto dallo sciarpone di lana che deve coprire le zampe di gallina sul collo, perché lui è sempre giovane. Lui ammicca, saltella, dirige e guarda il presidente, che è felice, che è vestito come uno sposo di paese, con la camicia bianca, il vestito blu scuro, il cappello ben fatto, e balletta felice e contento al coro dei bambini che inneggiano a lui. Accanto a lui tutte le autorità, c'è il vescovo con il crocione al collo accanto al sindaco, che il sindaco ha messo la giacchetta blu ma i pantaloni marroni, che è veramente un pugno in un occhio, ma il sindaco e il vescovo accanto anche loro ballettano. Poi a seguire le due maestre tettone, le più rappresentative delle maestre, ammesse in prima fila. Poi naturalmente alcuni personaggi di secondo piano stanno dietro e tutti cantano e ballano felici al coro di questi poveri bambini, che dietro hanno naturalmente la bandiera della pace, col bambino cinesino, il bambino bianchetto, il bambino negretto, con scritto pace sopra. Il quadro è completo. Ma dove siamo? Siamo in un'iconografia tratta da un film di Alberto Sordi degli anni 50, che rappresenta, ahimè, il leccaculaggio estremo, il rapporto stretto, indissolubile, fra potere temporale e autorità spirituale, in cui Alberto Sordi, povera, porta i suoi bambini che devono dire la posizione davanti all'onorevole. Siamo in un film di Nanni Moretti, che prende in giro quello che è il radicalismo estremo e terrazziero della sinistra romana, no, degli anni 70-80. No, siamo nella contemporaneità. Il premier Matteo Renzi, appena giunto all'Istituto Comprensivo Salvatore Raiti di Siracusa, questa è la cronaca che leggo su un quotidiano, è stato accolto da un coro di bambini. Matteo, Matteo, ripetevano. Il presidente del Consiglio si è fermato con alcune mamme, con cui ha scambiato alcune parole. Dalla folla la voce di una mamma: liberaci dai vecchi politici. Dei nostri sogni, delle speranze che ti affidiamo con fiducia oggi a ritmo di blues. I ragazzi e le ragazze, tutti assieme, alle tue idee, al tuo lavoro, affidano il futuro. E poi di nuovo, ancora assieme, il professore col maglioncino con le pezze ai gomiti, a questo punto invisibilio, guarda Matteo, sta piangendo, ha un'inascondibile eccitazione sotto il ginsino elasticizzato. E poi di nuovo, ancora assieme, noi camminiamo, ci avviciniamo, e un giro tondo noi formiamo sempre in tempo di blues. Ora, tutto c'era meno che il tempo di blues. Allora, il vescovo, se no, che faccia sussultare la panza con il crocifissone d'oro sopra. Il sindaco era impietrito dal momento solenne. Matteo, a fare il giovane, a un certo punto anche provato a dirigere. Le maestre tettone hanno cominciato anche loro a battere le mani e a fare la... provare a tentare una sorta di colitica e rattrappita ola in quel gruppo di rappresentanti del fiorfiore del paese, ma tutto, sono riuscito a battere le mani, facendo ancor più tremolare le loro grazie. Matteo a quel punto, anche lui, era un po' imbarazzato, perché tutto si può dire, meno che non abbia capito la gravità della situazione. Come? Una persona su cui abbiamo risposto tutte le nostre speranze. Il Presidente del Consiglio più Web 2.0, più nuovo, più rinnovativo, quello che avrà cancellato, asfaltato tutto il passato, ci mostra questa immagine, 800240024. Però non voglio entrare in questa vile polemica che oggi è presa da molti giornali, Libero, Federi, Balilla, che cantano con Renzi. Non è questo, Grillo si è arrabbiato, no. Io l'appello che voglio farvi è: salviamo questi bambini. In nome della libertà di espressione, in nome del terribile imprinting che li condannerà all'eccaculaggio per tutta la loro vita di questi bambini, ricordate anche voi gli episodi traumatici della vostra vita, quelli in cui siete stati costretti a fare qualcosa di vergognoso per far contenti gli adulti. 800 24 0024. Andiamo, ecco gioia, comiamo il giro tondo, tra Natale più felice del mondo. Tun ciao. Allora, c'è una campana. No, dimmi. C'è una campana. A dolce ci sta chi pianeta. Ma io non sento. E sta ci sei giù. Devi sotto Gesù. Brava! Lo devi fare bene. Beh, e grida un po' che ci. Così, Giulia. Così. C'è una campana. Quest'anno Natale mi ha dato pensieri, parole e sorrisi. Gli amici si tesi, dei vecchi regali, non voglio più niente, ad ogni Natale io voglio... Già arrivano i primi suggerimenti, già arrivano i primi tragici ricordi. Vi prego, attingete nel più recesso nascondiglio del vostro immaginario nascosto, represso, frustrato e dimenticato. Quando anche voi siete costretti a fare qualcosa di simile? Io immagino questi poveri bambini che vedo ancora con il fiocco, con il grembiale differenziato, azzurro i maschi, bianco le femminucce, come nei fantastici anni 50, ma gli anni 50 non erano quelli di Fonzi, erano questi bambini poverini, con le stesse scarpe estate-inverno, chiuse, strette, di cuoio brutte, piedini massacrati, le bambine avevano sempre quelle terribili babbucce, con i calzini con il merletto, costrette a avere anche loro vestiti che sarebbero stati vergognosi per le loro mamme, tanto così le vestivano, avevano le treccine fino a 17-18 anni. Erano anni bui, anni brutti, anni che non avevano nulla di fantastico, erano gli anni della mucca Carolina, erano gli anni dei formaggini che ci intossicavano. Perché dobbiamo rivedere e fare questo salto nel passato ai nostri figli? Beh, Fabio, buongiorno. Buongiorno. Avanti, il suo punto di vista, dica il suo ricordo tragico e frustrante. Ma non lo so, tragico e frustrante ne abbiamo visti tanti in questi ultimi anni. La mia opinione è che forse sarà stata un po' una macchietta anni 50, niente di male, soprattutto se non lanciano... Ah, quindi era, diciamo, un sottile gioco di revival, hanno dovuto fare, diciamo, dare un momento vintage per far vedere che sono molto avanti, dice... Siccome oggi tutti si vestono in epoche che non appartengono alla nostra contemporaneità, fanno le foto con Instagram che devono sembrare fatte con le Polaroid degli anni 70, hanno detto facciamo qualcosa di molto moderno, qualcosa di web 2.0, qualcosa di cyber fighetto, facciamo vedere un momento, una cartolina vintage che sembri che questa classe di bambini modernissimi che andranno a scuola con lo smartphone, vestiti come vanno vestiti in palestra, e facciamo finta di far vedere al presidente Renzi, che è uno moderno, una scolaresca sembra fotografata con Instagram. Beh, lei mi ha aperto veramente degli obiettivi che io non capivo. Un ciliegio grande e bello disse a un piccolo alberello: sì, sei bravo, hai messo i fiori coi loro petali a colori, ma cambiare poi nei frutti alberello non saprai. Roba da giardino zoologico. Però è ammaestrata bene. Ma scegliamoli questi bambini, io sono impressionabile. Nella sua vigliacca cattiva, implacabile, ma ahimè realistica lettura dei vizi della nostra società e soprattutto nelle profonde piaghe che il servilismo porta nella classe impiegatizia, Paolo Villaggio, in uno dei suoi fantozzi, ci mostra quello che è il paradosso di questa situazione. È la quintessenza, è la grottesca rappresentazione esasperata di quello che è accaduto nella scolaresca Salvatore Raiti di Siracusa. Mariangela Fantozzi, come tutti i bambini, figli degli impiegati, il giorno di Natale vanno a dire la poesia ai grandi capi dell'ufficio racchiusi nel loro cenacolo. Entrano uno dopo l'altro, i capi danno la carezza e via dicendo. Certo, quando entra Mariangela Fantozzi, che è bruttissima, orribile, terribile, è l'esasperazione di un bambino brutto che però è scarafone, quindi bello per mamma sua, e la ridono, la trattano come una scimmia, tirano le banane e via dicendo. Un momento bruttissimo, ma pensate nell'animo avanzatissime queste ragazzine, avranno tutto il loro profilo Facebook, staranno twittando, si passeranno i messaggini su WhatsApp con gli smartphone dietro la schiena mentre cantano il momento più felice di questa canzone. Muoviamo la testa, facciamo festa, a braccia aperte, diciamo benvenuto a Raiti. Però la frase prima è: ti salutiamo tutti assieme Presidente Renzi. Secondo me questa era pronta per dire Presidente Letta, che suona meglio con benvenuto a Raiti. Saranno preparati un mese fa. Improvvisamente la vena poetica di quel professore S.V.18 con il maglioncino con le toppe che dirigeva il coro dice: qua dobbiamo immediatamente cambiare. Come? È cambiato presidente del consiglio, allora si è messo di notte lui con tutte le maestre, con l'arcivescovo, con il sindaco, con tutte le autorità, con i bidelli, con quello che va a pulire i gabinetti. Cioè, cambiamo il testo di questa canzone, ma si può fare, è intoccabile questo testo. No, basta che semplicemente mettiamo: ti salutiamo tutti assieme Presidente Renzi, muoviamo la testa, facciamo festa, a braccia aperte, diciamo benvenuto a Raiti. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un ricordo profondo, lo dica. Sì, veramente profondo. Se ne liberi così starà meglio. Ho 67 anni, negli anni 50 ero in un collegio di suore, mi ricordo sempre e me lo ricorderò sempre che quando c'erano i funerali importanti ci mettevano la mantellina, le scarpine belle, i guantini bianchi e ci mettevano davanti al carro e facevamo quelli che accompagnavano. E dovete far finta di piangere anche? No, piangere no, perché a quell'età lì, cosa vuoi, avevo 7 anni, per cui non è che piangevo. Ma la cosa più bella era quando c'erano le raccolte delle olive, loro avevano tante olive, queste suore qua, tanti olivi, e ci mettevano sotto queste piante di olive, ognuno col suo cestinetto in mano, cantando le canzoncine. Ma questo è veramente vero. Se la ricorda la canzoncina? No, guardi, ma la ricordi no. Oh, che bello raccogliere l'olivella quando sì, ci guarda la cara sorella. Ma il problema è che intanto eravamo su tutte le olive, loro non avevano costi, era tutto guadagno, ti capì? Ho capito adesso che no, era didattica profonda, molto avanzata. Sì, veramente, va bene, grazie. Saluto. Grazie a lei Carlo, starà meglio oggi, l'ha fatto anche per l'orgoglio e il riscatto dei poveri bambini della scuola Raiti di Siracusa. Claudio. Sì, buongiorno da Roma. Senta, io ricordo da bambino una canzone che ci impararono dalle suore. Gliel'hanno imparata bene, sì. Sì, io me la ricordo, era Mamma amica mia, chi in cucina cucinava. No, la canti. Questa era una cosa del genere. Perché voi dovete protestare per la legge sul divorzio. Esatto, perfetto. E quindi va fatta una canzone di protesta. Io dovevo andare a casa e cantare questa canzone. Mannaggia, l'avesse saputo quel professore, era perfetta per Renzi con vicino l'arcivescovo. Esatto. Dica una strofa, ci illumini, vediamo se si ricorda. Chi in cucina cucinava, mamma buona canticchiava, una cosa del genere, guardi. Chi in cucina cucinava, mamma buona canticchiava e poi com'è? E poi credo mamma amica mia, una cosa del genere. Ma il papà cattivo per una donnaccia la lasciava e all'inferno poi andava, così era. Più o meno una cosa perfetto, del genere. Vede, è facile entrare nello spirito, nell'immaginario di chi ha queste profonde ispirazioni. Ci fermiamo un istante, traffico. Melog. Cronache meridiane. Quest'autunno birichino, si è vestito da Arlecchino, si è ghindato di colori e le foglie sembrano fiori. I campioni sono tanti, ma il papà li passa avanti. Come lui non c'è nessuno, è per me il numero uno. La testa, facciamo festa, a braccia aperte, ti diciamo benvenuto a Raiti. Ma allora, io sarei perfetto, devo dire. Beh, abbiamo fatto una operazione molto importante di rimozione dal nostro torbido passato fanciullesco di tutti gli episodi che hanno martirizzato le nostre vite e che hanno contemporaneamente martirizzato in questi istanti i poveri bambini della scuola Salvatore Raiti, costretti a cantare un'orrenda canzone che veramente dichiara vendetta a tutti coloro che hanno minimamente capacità di scrivere due parole in fila che abbiano un po' di musicalità e intrise soprattutto di una profonda, radicale, grondante leccaculaggine che costringe questi bambini a fare qualcosa che va contro, diciamo, la rapida evoluzione, la buona evoluzione della loro piccola esistenza. Marina, a lei è successo qualcosa di simile? Sì, effettivamente. A parte la festa degli alberi, che quella andava ancora bene. Ah, vero, la festa degli alberi. Il 31 ottobre si piantava una pianta. Anche lei dalle suore. Anche lei dalle suore. Dalle suore. Sì. Quindi, diciamo, l'immaginario che ha contaminato quel professore Figiciotto con le pezze sui gomiti e le clacche è quello delle suore. Ah, ecco, sì, ancora le suore. No, peggio era il 24 maggio e il 4 novembre. Sembrava di essere, allora io ho fatto l'elementare. La canzone del Piave. 65, 66 forse. Sì, 66. Allora, no, però è più giovane di me lei, scusi. No, scusi, no, Marina, è più giovane di me. Nel 66 ha fatto la prima elementare. No, nel 61 ho fatto la prima elementare. C'è la mia stessa 24, età. Come è possibile? Lei parla con una donna anziana, com'è possibile? E come? Fai come io nei miei tempi. Dice i miei tempi. Vabbè, allora cosa è successo allora? Dai, no, noi si faceva festa il 4 novembre, si doveva baciare la bandiera che puzzava di polvere. Uno schifo. Poi pensi, mio nonno era mutilato invalido. Allora, mio nonno era mutilato invalido di guerra, me lo faccia dire. Quindi il 4 novembre si metteva tutte le medaglie, dovevamo andare lì a vedere il nonno che sfilava. No. Io ero dalle suore, erano suore, però e sono suore in gamba, perché poi sono andate a fare le missionarie in Brasile, le nostre suore qui di Cuneo sono state molto in gamba. Però felici brasiliani, figuriamoci. Vabbè, che le ha fatto, ne ricordi una canzone? Dica almeno una canzoncina orrenda che le facciano cantare. L'esercito non c'ava. Le placido il passaggio. Dai, di primi fanti il 24 maggio. Il 24 certo, oggi è un po' difficile. Appunta. Tutte canzoni di guerra comunque, quelle che ci volevano. Sì, ma no, sembrava di essere in epoca fascista, siccome mia mamma... Beh, non è che erano passati tanti anni. Dai, passa anni più di me, lei è nata in epoca fascista e ha la mentalità fascista. Beh, per fortuna, magari aveva nostalgia, queste cose fossero dimenticate, questi brandelli di storia non ci fossero più. Abbiamo visto che li hanno immediatamente ritrovati con una modernissima cyber passione per il vintage. Diciamo, Renzi ha fatto un'operazione Instagram. Luisa, buongiorno, andiamo ancora più indietro. Buongiorno a voi. Sì. Allora, io ho 81 anni. Ah beh, ecco, per fortuna Italia. Qualcuna che c'è un po' più di mese, no? Mi deprimo. Ho 81 anni, poi lei c'è la voce da ragazza, come mai? Beh, la ringrazio molto. Ma l'altra era giovane, sembrava una vecchia. Non sono niente ragazza, ma lasciamo perdere. Allora, quando avrò avuto 8 o 9 anni, adesso non ricordo bene la data, arrivò il Duce a Cagliari. Ah, lei ha visto il Duce? Certo, io ho visto il Duce. Vedi. Questo... Vede, la mia è proprio... No, questa esperienza renziana le riporta... richiude il cerchio a qualche cosa di altri tempi. Era simile, diciamo, a quello che vedeva lei. Pronto? Era simile a quello che vedeva lei. Beh, insomma, diciamo che quello che vedevo io magari era un po' meno conosciuto, perché non c'erano macchine da presa, non c'erano foto. Allora ce lo racconti, ce lo faccia vedere con gli occhi di lei bambina. Quando arrivava al Duce, cosa faceva? Tutti i bambini di tutte le scuole che a piedi si avviavano verso lo stadio, che allora si chiamava Campo Dux. Campo Dux. E cosa facevate? Facevamo, eravamo tutti seduti negli spalti, poi c'era un gruppo che faceva lì all'interno, proprio nello stadio, nel tappeto erboso, faceva delle figure che dicevano... Atti di destrezza ginnica. Esatto, ginnastica, e veniva fuori, che so... Viva il Duce. Scrivevano, diciamo, componevano con i loro corpicini innocenti delle parole. Scusi, questa è sfuggita al professore con le pezze ai gomiti. Poteva far comporre Matteo dai corpicini dei bambini, che dall'alto si era scritto Matteo. Vedi, c'è sempre da imparare dal passato. Si ferma un attimo, Luisa, perché c'è Rocco di dirci una cosa importantissima. Rocco, lei ha subito quello che nessuno mai avrebbe mai immaginato che un bambino potesse subire. Cosa le hanno fatto fare? Ma due cose. Innanzitutto buongiorno Nicoletti. Buongiorno caro. Io credo di avere più o meno la sua età, perché sono del 54. Perfetto, grande anno. Ok. Allora, relativamente alla comparsata di Renzi, non ho parole. Tutto vabbè, sono fatti suoi. Vediamo noi. Noi cerchiamo, le scaturigini di quella comparsata, perché è facile criticare. Cosa c'è dietro? Lei cosa ha subito? Allora, io ho subito, si fa per dire, diciamo che all'età più o meno di 6 anni, sì, a Pasqua, c'è una festività di cui adesso non mi ricordo esattamente la data e neanche il nome. Il Venerdì Santo. il venerdì santo, in cui il vescovo, in questo caso nella città di Pavia, nella chiesa di San Michele Maggiore, che è un grande monumento, viene a lavare i piedi dei bambini. Ah, dei bambini, sì. Non, cioè non essere piedi lebbrosi, di mendichi. No, lava i piedi dei bambini. E voglio dire, io sono stato cooptato per fare questa cosa, no? Quindi se gli hanno detto levati le caccole dai piedi, lavateli bene. Il problema è che io ero all'oratorio a giocare a pallone. Quindi piedi zozzi. All'ultimo momento mi hanno detto, bisogna fare questa cosa. Allora io sono corso a casa, ho cercato in qualche modo di lavarmi, di rivestirmi un po'. I piedi erano sozzi o puliti? Per arrivare in chiesa. E per scoprire che poi ero l'ultimo, come Giuda. È una cosa che poi ho sommatizzato tanti anni. E che impressione faceva il vescovo che le lavava i piedini di bambino innocente? Che faccia faceva il vescovo? Non lo so, io guardavo. Cioè le metteva sui piedini nudi davanti al vescovo e lui glieli sciacquettava. Sì, Atto di feticismo sadomasochistico, però questo suo ricordo l'ha segnata della vita, sì? Sì, ogni tanto lo sogno. Cioè lei è un feticista dei piedi praticamente? No, però ogni tanto mi capita di ricordare questo. Me ne rendo conto. Mauro, buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa è successo? Due considerazioni. Un ricordo dell'infanzia, di quando facevo le elementari, venne praticamente un personaggio politico a Nettuno, a noi ci misero col tricolore in mano e ci facevano cantare le canzoncine tipo se vuoi il pane vota Fanfani, se ti piacciono i meloni vota Bonomi. Ah, bellissimo. Bellissimo questo, eh? Cioè con Renzi rimasto... cos'è che fa rima? Non ho capito. Con Renzi non c'è niente che fa rima. Se ti piace, non no. so. Vabbè, era un'assonanza praticamente su quello che è successo. Seconda considerazione. Ma lei non pensa che sarebbe opportuno rimuovere tutti coloro che hanno preso questa iniziativa? Che non succederà mai questo, rimuovere. No. Non è, sa, ognuno vede la capacità di esistere e di omaggiare un capo a modo suo, loro hanno vista pensandoci, pensavano a Instagram, facciamo una vecchia foto vintage degli anni 50, ci sono riusciti, i vostri ricordi corrispondono perfettamente a loro. Ugo. Sì, buongiorno. Allora io mi ricordo Colonia Marina di Cavi di Lavagna, era una colonia marina per i figli degli operai della Società Nazionale Cogne, io avevo circa 6 anni. Allora noi ogni mattina facevamo l'alza bandiera, ma di fronte alla bandiera valdostana cantando Montagna Valdotena. Bellissimo. Di questa cosa, diciamo, ha subito dei traumi che ancora se li porta dietro per tutta la vita, se li porterà. Certo. Quindi certo. Mi dà ragione il fatto che questi poveri bambini rimarranno segnati tutta la vita, avranno incubi tutta la vita. Un po' di vergogna sì. Poverini, si vergogneranno. Ci dispiace per loro, abbiamo fatto il possibile per riscattare l'orgoglio. Grazie Chiappini, grazie Rocchetti, grazie Intonti. Thank you.